se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ma come si fa a ascoltare una persona così di prima mattina? Ma chiuditi a casa e statene a casa! Grillo ha proposto una cosa che, a mio parere, era di una semplicità perfino ovvia, cioè il riconoscimento da parte dei 5 Stelle che un avviso di garanzia in un paese civile non significa niente. Il vezzo di utilizzare in termini di lotta politica le vicende giudiziarie è stato un vezzo molto diffuso e molto coltivato, soprattutto dal PD. Oggi è coltivato a tutti quanti, a seconda di quello che fa comodo. Che tristezza. Now no one's knocked upon my door. Che tristezza. Buongiorno, sono tornato, signori. Che tristezza. Vabbè. Caro Peter, buongiorno e buon anno anche a te. Che tristezza. Sono le 6:25. Vedete come iniziamo in anticipo oggi? Padula controlla, la Padula si gira, rimpallo la Padula, tocca il pallone, Bacca! E il gol del Milan, Carlos Bacca si sblocca e torna a segnare. È tornato Carlos Bacca. Che tristezza. No, no, questa no, come che tristezza. Signori, siamo qua allora alle 6:26, torna 24 mattino con il sottoscritto, riapre il Parlamento, c'è Peter Bescapè in regia, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, siamo qui tutti pronti e via di schitarrata. Che tristezza. Police che ci piacevano, quelli buoni, prima del degrado, del lungo e lento declino, eh? Va bene. Siamo qui alle 6:27 ormai. Allora, il Parlamento riapre, ringrazio tutti quelli che mi stanno mandando messaggi al 349-238-6666, grazie per il bentornato, ora non vi mollo più, si spera. E, come dire, volevamo iniziare l'anno in maniera non soft, eh? Volevamo iniziare l'anno in maniera un po' scoppiettante, eh? Non potevamo iniziare l'anno che poi mi deprimete così, mi abbattete. Voglio iniziare subito con un personaggio di quelli che al Parlamento si attende da centellinare, ma si attende sempre con ansia, eh? Lo accogliamo così mentre Sting ancora affina l'ugola. Aspetta, falla affinare, vai. Erano un po' i tuoi tempi, caro Alberto Forchielli. Ciao Lino. Come stai, sì. Albertone? Ciao Lino, sono così contento di sentirti e di essere qui. Come mai? Ma dove sei di bello? Sono a Hong Kong. A Hong Kong, ecco. Per dire sono qui con voi, Albertone Forchielli, vuol dire sono a Hong Kong. Mi sembra giusto. Allora, caro Alberto, eccoci qui. Abbiamo un po' di tempo oggi perché vedi, iniziamo un po' prima. Dobbiamo subito aprire il Parlamento. Riapra il Parlamento! Ragazzi, se uno esce, prendete un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Ma... Forza, forza, gente, accorrete al Parlamento. Allora, mi dicono subito, mi raccomando, ieri si votava per le province, commento, ieri si ferma, ma porcaccia la miseria, siamo il paese del Gattopardo. C'è anche un ministro, sentite, il ministro Costa, che ha proposto di tornare al voto delle province, non di secondo livello come adesso, ma al voto delle province popolare, cioè tornare, andare all'indietro, capito Alberto? Andiamo all'indietro, come i gamberi, no? Andiamo, E del resto c'è anche da chiedersi. Perché per fare un governo di transizione bisogna parlare con Napolitano, che alle 5 di pomeriggio dovrebbe essere a casa per prendere gli ortego, il caffè latte e poi andare a nanna. Ecco subito. E abbiamo, ai parlamentari, guarda, comunque non ne fa un cazzo il paese. Addirittura. Temporeggiano solo per ottenere il pensionello. Il pensionellum, sì. Credo che a settembre sia il pensionellum. Il 15 settembre. Melina, come non ha fatto il tuo Bologna, questa come non ha fatto il tuo Bologna. Sì, ma sai, noi a Bologna siamo stravolti dalla scomparsa di Pascutti. Ah. Un pezzo della mia vita. Io ci sono cresciuto con Pascutti. Cioè, è veramente un pezzo della mia vita, un dolore tremendo. Altri tempi. Io sono cresciuto con le figurine, sì, Bologna dello Scudetto, la Nazionale, io sono cresciuto. Mm. E invece adesso, come dire? E vabbè, eravamo tutti un po' poi la Juve, ragazzi. Scherza mica. Ma ci rifaremo col Milan, Milan, detto quando va in regionale, cosa è un regionale? Mamma mia, adesso attenzione, è vero, c'è il solito aggiornamento sul closing, ho letto che per i cinesi c'è un piano B, se non c'è il piano B c'è anche il piano C, se non c'è il piano C forse c'è anche il piano D, non lo so. Ho sentito parlare di Lussemburgo, non ho capito più niente. Però dici un po' come sta la questione dei cinesi al Milan. Stai attento, che guarda che ti ascoltano i cinesi. No, al di là del fatto che va a finire male comunque, però tutta questa storia sulle società, sulle Virgin Island, le isole Vergine, non c'è niente di male, perché è molto normale per un cinese averla. Uh-huh. E quando non possono avere il permesso di portare fuori i soldi, loro si danno una garanzia in renminbi a una banca cinese, uh-huh, che poi gli fa avere la disponibilità fuori e poi transita eventualmente attraverso la città delle Isole Vergini, che non è assolutamente illegale per un cittadino cinese. Quindi quello che a noi potrebbe stupire un po', sì, lì non è assolutamente legale. Ho capito, però hai detto va a finire male comunque, perché va a finire? Ma non sappiamo se hanno i soldi, questo non è detto. Poi dopo se ce li hanno comunque li prendono con l'intenzione di andare in borsa e la borsa cinese non credo che lo digerisca e poi non va neanche bene. E poi dopo dicono in giro che farà questi 2 miliardi di fatturato, questo va in borsa dopo un cataclismo, io me l'aspetto col Mesolara. Io non vengo neanche a San Siro, io penso che la vado a Butrio tra qualche anno. A Butrio? A Butrio? No, il Milan che gioca a Butrio, no? Poi capito, poi sono una masnada, se devo mettere d'accordo in 50 in Cina, capito? E c'è voglia, per giocare a calcio ci vuole un padrone che ne sappia. Che sia sulla palla ti prende un sacco di tempo, quindi vabbè, mettiamola più, così potremmo anche acquisire lo stadio e venderlo e farci questo, tanto non giocheremo più a San Siro tra qualche anno. No, per me no. Per me bisogna che andate a cercare delle aree lì nel dell'entroterra. Sì. Tutti sì, a Budrio, no. A Budrio. Sì, che serie, sì. In che serie gioca il Budrio? Ma non lo so. Forse interregionale. Interregionale, sì, sì. Lo leggo sempre sul Carlino, lo sento. Nel calcio nazionale dilettanti finiremo, secondo Forchielli, tifosi del Milan. Attenzione, il suo account Twitter per fargli passare una buona giornata è così, è semplice, Forchielli. Forchielli con la F iniziale, Forchielli con due L, andate a cercarlo, ha detto che il Milan tra qualche anno finirà in interregionale e giocherà a Budrio. Tra poco lo twitteremo anche, così gli faremo passare una bella giornata. Intanto noi siamo quarti in classifica, potenzialmente secondi, terzi, non lo so. Insomma, siamo dobbiamo recuperare una partita, abbiamo vinto la Supercoppa italiana e lui ci vuol mandare a Budrio. Con tutto il rispetto per Butrio, sì, le briciole dell'impero. Le briciole dell'impero, va bene. Allora, caro Alberto, parliamo di cose un po' più serie. Allora, ho già il timore di chiedertelo, ma secondo te che anno sarà per noi 2017? L'Italia, No, cioè, mentre per il mondo sulla carta è un anno molto positivo per l'economia, per l'Italia sarà solito anno di merda. Bene. Yeah. Ok. Sì. Se ci va bene quell'1% che non cambia la nostra percezione dello stare meglio. Cioè l'1% di crescita, dici? 1% di sì, crescita. Se va bene, sì. Non è possibile per noi fare più tecnicamente, per ragione, per la mancanza. Non sto a spiegare cosa. Io difatti sono arrivato alla conclusione che cerchiamo tutte soluzioni miracolose, no? La sovranità monetaria, sì, varie cose. Io sono arrivato alla conclusione che l'unica cosa da fare veramente è mettere in sicurezza il paese. Gestire la sicurezza, se ancora lo possiamo fare. Cioè, la sicurezza dal punto di vista di che cosa? Minacce? Se poter andare in treno senza essere derubato, poter passare in stazione, non dover mettere le grate alle finestre, capito? Cioè, non avere tutti i muri dipinti, capito? Bologna ormai non c'è un muro che si salvi. Insomma, dare un attimo ai cittadini la sensazione, vabbè, non cresciamo, però puoi andare in giro con la borsetta, cara nonna, almeno. Certo, posso andare in autobus senza essere borseggiato, soprattutto in un paese di anziani dove questo senso di sicurezza è molto è molto sentito. Io a questo punto, visto che sull'economia tanto non cavano, cioè, sono decenni per rimetterla a posto, no? Quindi almeno ripartiamo dalla sicurezza, ho capito, perché io dobbiamo fare già qua il tema è sempre, non è che voglio collegare le due cose, però non bisogna neanche fare i finti tonti, il tema è i tanti immigrati che sono un po' in situazioni anche, diciamolo francamente, gestiti in situazioni vergognose, cioè ammassati in centri dove stanno in 300, in luoghi dove dovrebbero stare 50 persone. Poi è chiaro che se butti 300 persone lì, non gli fai fare niente, gli dai 10 euro al giorno dicendo toh, vivacchiate così, insomma, trattati un po' come bestie, uno cosa deve fare? Insomma, si comporta, rischia di comportarsi un po' come una bestia. Questo secondo me. Sì, infatti adesso non voglio suscitare polemiche sul discorso immigrazione e criminalità, ma sicuramente dobbiamo investire per creare delle strutture migliori. Ma anche perché un legame c'è, guarda che lo dice la polizia, le fonti di polizia, cioè laddove ci sono un'immigrazione che è gestita male e fuori controllo, è chiaro che è inevitabile che aumentano i rischi di criminalità. Sicuramente quando io dico sicurezza, per me possiamo anche prendere dei leasing, dei terreni in Albania, fare dei campi di lavoro là. Cosa vuol dire? No, questa sì, io sono molto creativo su questo. Talmente creativo che non l'ho capita. Cosa vuol dire? Cos'è che dobbiamo fare? Oh beh, se ci danno il leasing dei terreni, li mettiamo fuori, come fanno gli australiani. Prendiamo gli immigrati e li mettiamo in Albania, in treno. Sì, o anche in Uzbekistan, se ce li danno, cioè dove capita, prendiamo chilometri quadrati e siamo lì, i terreni, non lo so. Vabbè, ma in dai. Attesa. Ma l'Albania se li dovrebbe... Delle zone franche, una specie di... ricreiamo delle colonie penali quasi. le colonie penali, mamma mia, ma se li devono prendere in Albania, dai, questa è un po' una buttata così, cioè cosa vuol dire? No, mica tanto, sai, tanti quella gente che tanti quella terra che non sa cosa fare, ci sono tanti quei paesi al brevo. Vabbè. Allora, dai, vogliamo parlare un pochino, voglio sapere i tuoi giudizi in maniera secchi, perché c'è un nuovo governo. Renzi, anche se oggi i giornali raccontano che Renzi sta preparando il ritorno, sta facendo scouting tra i giovani, raccoglierà nuove forze, pare che insomma anche col Giglio Magico ci sia qualche problema, con la Boschi, i rapporti un po' così, vuole cambiare un po' tutto, puntare a vedere che legge elettorale sarà, una roba noiosissima, ma si aspetterà a fine gennaio. Però nel frattempo ci siamo mollati con un governo e ci ritroviamo con un altro governo, caro il mio Alberto Forchielli. Ma sì, poi è sempre lui che tira le fila, secondo me. Dici? Sì, Gentiloni è un testa di legno. È un testa di legno. Secondo me, sì, con tutta questa nebbia umida gli cambia anche la taglia del cappello. Sono adesso. Oltretutto, non so se hai notato, Gentiloni, non ti sembra un manichino di Vitadello? O di Facci, ti ricordi? Oh, obiettivamente non avevo avuto questa idea. Lì così, con quella bella chioma lì che gliela invidio, peraltro. Esatto, parli tu, che voglio dire, c'hai la boccia pelata, quindi. Quindi sembra un manichino. Vabbè. Sì, di Vitadello. Di Vitadello. Vabbè. Ma ti piace lì, cioè, nel senso, al di là di come ti sembra, sei sempre un po' lombrosiano, ma ti sembra, ti ispira, cioè, di ex ministro degli esteri, insomma, avrà anche un peso. No, si presenta in modo molto più civile di Renzi, almeno non fa quelle buttate, quelle che. Tutte quelle affermazioni, siamo i primi al mondo, siamo tornati, lo sento molto più sobrio. Più sobrio. Più non sobrio. So come far riusciranno a mettere queste cose sulla legge elettorale, però tanto guarda, qui governo, stanno cazzo. La dimostrazione è stata la Spagna ha fatto un 3% senza governo, cioè, questa è l'altra. Se a me che ci sia o che non ci sia un governo, mi interessa abbastanza poco. Beh, dai, però gli italiani non sono abituati, la Spagna, anche in Belgio sono stati 2 anni senza governo. E di fatti ha messo a posto il bilancio. Lo so, sì. Ma noi, come dire, non siamo... Non siamo una cosa che facciano che ci vadano bene, e le cose che devono fare non le fanno, che differenza fa? Cioè, in realtà non è che sia il governo di un paese estremamente indebitato all'interno dell'Unione Europea, in un mondo globalizzato, conta poco. E poi non si occupa di problemi cui si può occupare, tipo la sicurezza, ok, e allora il resto, poi tocca la scuola, fa un disastro, tocca il Jobs Act, rimane a metà, adesso lì coi voucher viene fuori che li usano tutti, inclusi il sindacato. A proposito di voucher, questo è interessante, no, ma del governo poi ti devo chiedere altre cose, poi hai toccato la scuola, oggi il Corriere della Sera lo leggerò in rassegna stampa, fa un'inchiesta molto puntuale di Gian Antonio Stella dicendo che 250.000 professori hanno cambiato cattedra all'inizio di questo anno, coinvolgendo un allievo su tre ha cambiato, alcuni addirittura 3 supplenti, 4 supplenti già in pochi mesi. Però, visto che hai detto dei voucher, c'è questa notizia, sì, della CGIL a Bologna, nella tua Bologna che usa i voucher. Senti Cofferati, che nella CGIL è stato il padre padrone, in senso positivo, cioè è stato il segretario storico. I voucher hanno sostituito modalità di lavoro che c'erano prima, perché sono più convenienti e sono diventati non a caso l'emblema del lavoro precario, della frantumazione. Lavori 8 ore, te ne pago 2 con i voucher, le altre 6 vanno in nero. Caro Cofferati, forse l'ha dichiarato poco prima di sapere che la CGIL, a cui immagino sarà sempre legato Cofferati, li usava a Bologna con tanto di mail interne, caro Alberto, di minimizzare questa vicenda, raccontava Repubblica, no? Le mail a dire se per caso la stampa chiede minimizziamo. Sì, i voucher sono lo scivolo verso il lavoro totalmente nero, lo scivolo verso la messicanizzazione, di cui parlo spesso. La messicanizzazione è la tappa intermedia per arrivare a mettere il maggior numero possibile di lavoratori in nero, per far sopravvivere le imprese. quindi beh, ti stupisce che anche la tua città, la tua CGL, o meglio nella tua Bologna, la mia, no, mia nel senso, no, tua Bologna, no, non mi stupisce tua, niente, no, tua, non mi stupisce niente, tu, non ti stupisce, non mi stupisce una città dove l'ultima opera fatta è stata la tangenziale. Io feci con mio padre, lavorai con mio padre nel 1977 un'Appia seconda serie, questa è stata l'ultima opera fatta da, è stato il governo PC di Bologna, è stato quello, è stata quella. Vabbè, allora dimmi un po', non so, non ti ispira tanto Gentiloni, ti ispira Renzi? Renzi l'hai visto che scia un po' come Fantozzi, ma sta tornando, Beh, mi ispira, adesso ho capito perché Padoan indossa sempre quelle giacche a capatoio. Perché? Con le balle che racconta deve sudare come un pugile suonato, ma tu pensa, tu pensa alla balla che ti ha raccontato sul Qatar, ma cosa ti aveva fatto di male in Qatar per entrare nel Monte Paschi, capito? Questi mentono con una facilità straordinaria. Quindi cosa vuoi che si dica del governo, capito? Non lo so, cioè, c'è Alfano agli esteri con la fuga dei cervelli, no? Il suo cervello è fuggito da mo', capito? Cioè, quell'altra là, la Fedeli, che non c'è neanche, no? Che in teoria, non so cosa si dica. Alfano sembra il buffetto dell'Eucestina adesso che è ministro degli esteri. Però non ho voglia di prendermela. No, no, no, infatti, non hai voglia di prendertela, e hai già sistemato da Napolitano a Gentiloni, Alfano, a Padoan. A proposito di Padoan, però, sul Monte Paschi, allora andiamo alle informazioni sul traffico, perché poi ti devo chiedere appunto delle banche. Attenzione, c'è una mossa interessante del presidente dell'ABI, l'associazione delle banche, Patuelli, che è anche presidente del Banco di Ravenna, credo, e che ha fatto una dichiarazione molto interessante riguardo al Monte Paschi, il salvataggio pubblico, i debitori, gli insolventi. E poi ti devo chiedere di Beppe Grillo, insomma Beppe Grillo che ha fatto questa mossa, è la notizia politica del giorno, a livello europeo vuole cambiare, abbandonando gli euroscettici, vale a dire Farage, UKIP, e diventando invece, associandosi ai liberali. Non so, Beppe Grillo, liberale, io sinceramente questa mi suona un po' insolita e strana. Comunque, tra poco, Mamma mia, non ce la faccio più, ce la faccio più, e datemi sto benedetto traffico. Mattino. Al di là del fatto che non volessero davvero riferirsi a questo telegiornale, ma ad altri, resta il tono e la misura, quella delle giurie popolari, che sono da respingere totalmente. In un clima, lo ripeto, non di, a questo punto, non di querele o cose di questo genere, ma di critica molto seria, visto che è un tema che abbiamo a cuore, quello dell'informazione, che è il nostro lavoro di tutti i giorni. Vabbè, ma poi mi è arrivata la voce che hanno fatto pace, dai, Mentana e Grillo, dopo che Grillo aveva proposto questa cosa che tutti ci sono cascati per due giorni. Allora, Grillo aveva questo problema del codice etico, del fatto che aveva cambiato idea, se uno riceve un avviso di garanzia non si deve dimettere, e quindi, siccome era sotto attacco su questo, si è inventato questa, come dire, questa puttanata nelle giurie popolari per distogliere l'attenzione, l'ordine dei giornalisti che si è arrabbiato, tutti i giornalisti infuriati, cioè, e ha distolto l'attenzione dal problema che aveva da affrontare. Ma comunque, guarda qua, tra l'altro Libero dice che Poletti potrebbe dimettersi domani, c'è questa indiscrezione su Libero, per evitare, potrebbe dimettersi dopo tutte queste polemiche. Vabbè, staremo a vedere. Siamo con Alberto Forchielli. Allora, caro Alberto, sai cosa ha fatto Patuelli, il leader, presidente dell'ABI? Ha chiesto, visto che c'è una banca, il Monte Paschi, salvata con soldi pubblici, la privacy deve cadere, e voglio sapere i 100 nomi dei debitori insolventi del Monte Paschi. Ha suscitato un po', e sta suscitando un po' di clamore questa Ti sembra corretto questo atteggiamento, dire, visto che l'abbiamo salvata, almeno dice, diteci chi non ha dato i soldi? Sì. Non ci trovo niente di male. Poi legalmente ci sono delle regole di privacy, però sì, è stato sospetto perché ha mandato via Viola, poi dopo è arrivato lì Morelli che comunque non ha combinato un cazzo neanche lui, capito? Viola poi poveraccio aveva fatto un buon lavoro, perché mandarlo via, c'è un qualcosa che non torna a molte parti, no? Tutta questa palla del Qatar che poi non era vero, era chiarissimo. Cosa aveva fatto noi male in Qatar? Come si fa a investire in una banca tutto in Monte Paschi? È una cosa che non sta di piedi. Sì. Per cui trovo che sia sostanzialmente, sarei curioso anch'io di sapere un po' di nome. Ma magari 97 sono i soliti, però vengono fuori, non so, magari abbiamo finanziato, non so. Non diciamolo prima di evitarci grane. Insomma, abbiamo finanziato qualcosa che non dovevamo finanziare. E va bene. Allora, intanto hai visto allora che il buon Beppe Grillo ha fatto il come dire, a livello europeo, te lo vedi liberale? Liberale Beppe Grillo? Ah, beh, sai, Grillo è andato da Briatore. Infatti l'hanno colto i fotografi in piscina da Briatore in Kenya e lui si è inabissato fingendo di essere un robottino pulisce alghe. Il robottino pulisce alghe. Sì, vabbè, ma ci va ogni anno. Anche tu Alberto, queste polemiche sulla presunta ricchezza, no? Che male c'è, che male. Vabbè, anche lui. Poi, senti, io Guy Verhofstadt, il capo dei liberali, lo conosco benissimo, perché lui era presidente del Belgio quando io abitavo in Lussemburgo. Andavamo in bicicletta insieme. Sì. Andavi in bicicletta, andavi in bicicletta con Guy Verhofstadt. Sì, 50 kg fa. 50 kg fa tu perché lui mi sembra uno in linea. Sì, andavo in bicicletta con Prodone. Roger De Vlaeminck. Roger De Vlaeminck, il grande ciclista, grande. Ah, bellissimo. Cioè, attenzione, il quartetto Forchielli, De Vlaeminck, Romano Prodi, Guy Verhofstadt. Sì, la sua funzione. E chi è che tirava più sulle salite? No, Guy Verhofstadt andava come un siluro. E invece il ruolo di Roger non sono tante salite in Belgio. Allora facevamo tipo il ciclocross, capito? Sì, avevamo con le mountain bike. Che cazzo di salite c'è in Belgio? È piatto. E il ruolo di De Vlaeminck era quello di andare dietro alla selle, Prodone, in modo da non farsi fare brutta figura. Certo, sì, per non fare, faceva finta. Dopo io provai a farlo, io provavo a farlo con Prodone, e lui dice, cazzo, mi fai perdere 2 milioni di voti! Vabbè, ma insomma, andavi in bicicletta con Verhofstadt, però non credo che ti parlasse della svolta di Grillo 55. No, guarda, Guy Verhofstadt è uno molto serio, io non... Proprio con Grillo c'entra come i cavoli a merenda, ossia io non è un liberale tutto d'un pezzo, europeista convinto. Io non posso immaginare come che affinità ci sia. Ossia, non c'è dubbio che il problema dei 5 Stelle sono tante anime diverse, quindi sicuramente c'è un'anima anche liberista di gente che non le ma può no, più. Ma dai, ma sono cose, però... ma sono cose perché il 17 credo si vota per il nuovo presidente dell'Europarlamento, perché si è dimesso Schulz, che si vuole candidare, e Verhofstadt pare che sia candidabile o può puntare, e quindi unendosi il gruppo diventa un po' più grosso. Ci saranno finanziamenti, ci sarà anche la prossima... Sì, ci sono quei famosi 700.000 euro in ballo, c'è quella roba lì, però sono abbastanza tifosa, io non volevo dirla. Lo racconta nei giornali, c'è anche possibilità, anche un gioco di poltrone, nel senso che se Verhofstadt diventa presidente, qualcuno dice una vicepresidenza potrebbe scappare anche per quelli del Movimento 5 Stelle, vicepresidenza del Parlamento Europeo. Si omologano. Va bene, poi ecco, che tutte queste robe dell'euro sono campate per aria. Si omologano, non è il massimo per uno del Movimento 5 Stelle sentirsi dire si omologano. Oh, sa, ma siccome io non lo voto, capito, sono cazzi suoi dal mio punto di vista. anche questo posso fare il ventriloquo adesso, capito? Sia, posso mica parlare per un 5 Stelle, io parlo per me. Anche questo è vero, anche questo è vero. Va bene, allora abbiamo sistemato anche il Movimento 5 Stelle, non lo so. Ecco, no, ti voglio chiedere questa cosa, tu che hai uno sguardo sempre internazionale, ti preoccupa, che cosa, o meglio, ti preoccupa, è una domanda un po' stupida, perché è ovvio che preoccupa quello che sta succedendo in Turchia, l'ISIS, che sguardo hai, insomma, soprattutto sulla Turchia, questo paese che noi guardiamo con grande attenzione, qualcuno dice Europa, altri dicono ma va, non so, non potrà mai essere Europa, e lo dimostra quello che sta succedendo anche con la repressione di Erdogan. Sì, la Turchia mi preoccupa molto, perché sta anche cascando a pezzi economicamente, cioè, tra un po' va verso il default, perché non quindi è un paese che rischia di esplodere non solo politicamente, militarmente, ma anche economicamente, perché non vogliono alzare i tassi di interesse, per cui c'è un'emorragia di lire turche, ha sempre avuto, non ricevono più finanziamenti, quindi sì, per la Turchia mi preoccupa assai. Sì. Però insomma, il Medio Oriente, guarda, se Russia e America si mettono d'accordo, è una questione che si riesce a rimaginare in fretta. Ci vuole quell'accordo lì che poi si porta dei cinesi. Eccolo è lì. Tutto lì. La chiave di svolta del Medio Oriente è quella. Mi stai dicendo che stai stifando sotto Trump e la sua vicinanza con Putin? No, su quello sono sempre stato d'accordo. Tieni presente che Trump poi è anche ambivalente, perché poi lui ha messo, dice che Israele deve avere la capitale Gerusalemme, quindi c'è una lobby israeliana molto ebraica molto forte, per cui Trump è anche, si autocrea dei problemi, però la chiave del Medio Oriente è questo accordo tra Russia e Stati Uniti, possibile. E quindi tra Trump... Pericolo, no, ci sono. Guarda, la situazione economica mondiale è buona, sì, però ci sono delle enormi incertezze. La prima è che è molto legata a Trump. Metterà le tariffe, abbassa le tasse, come fa a botte con la Cina, toglie le sanzioni alla Russia, lascerà mano libera la Fed, le tasse di interesse, dove va il dollaro. Poi abbiamo elezioni Francia-Germania, abbiamo il Brexit, il congresso del Partito Comunista in autunno che è fissa la nuova lista per i prossimi 5 anni. E poi torna Renzi. Un tema di cui parlano pochi. Durante l'anno la Nord Corea dovrebbe essere in grado di mandare di testare il primo missile balistico intercontinentale. Allora fermati lì, caro Alberto, perché hai messo tanto nel menù. Tanto ci sentiremo nel 2017. Intanto ti mando un grosso abbraccio, Alberto Forchielli, e ci sentiamo alla prossima. Giornale Radio, rientriamo con la rassegna stampa. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Allora, signori, siamo qui alle 7:19 minuti. Ben ritrovati anche voi che state facendo colazione, state andando a portare i bambini a scuola, state andando al lavoro, non lo so, state girando per l'Italia, state girando in mutande per la casa, chi lo sa, state facendo la doccia, vi state tagliando la barba. Il nostro Peter Bescapè è qui in regia insieme a Lorenzo Nespoli, questo è lo spazio dedicato alla rassegna stampa dei giornali e dunque alla lettura dei giornali di 24 mattino. Siamo pronti, caro Peter? Andiamo! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. In questo lunedì 9 gennaio 2017, intanto vedendo i giornali si scopre che non c'è una notizia che domina sulle altre, quindi le aperture sono variegate. Per il Sole 24 Ore, la casa, acquisti in ripresa, la mappa città per città. I prezzi in calo fanno lievitare le transazioni del 28%, dunque si torna ad acquistare e a spendere e investire nel mattone. Poi il Corriere della Sera, un'inchiesta bella sulla scuola di Gian Antonio Stella, da cui partirò visto che ripartono le scuole oggi. Il caos nelle aule, un ragazzo su tre ha cambiato professore, la scuola mobile. Pensate che 250.000 professori hanno cambiato cattedra. Il Giorno invece, congedi, la grande truffa, gli abusi della legge 104, permessi facili con la scusa di assistere familiari malati, scoperti in vacanza alla partita, un imbroglio da 700 milioni di euro. La politica, poi la notizia del giorno, certamente è la giravolta di Grillo, via da Farage nell'Unione Europea con i liberali, la svolta spacca il Movimento 5 Stelle, è il titolo di apertura di Repubblica, anche la Stampa, Europa, la giravolta di Grillo. Per il Messaggero, salva banche, stretta sui debitori. Un emendamento al decreto obbligherà gli istituti a rendere noti i nomi dei grandi clienti insolventi. Anche Libero apre su Montepaschi, pignora la casa ai poveri e salva i ricchi, e Libero invoca fuori i nomi dei bidonisti. Per il Giornale, come guadagnare nell'epoca dei bot sotto zero, ecco tutti i consigli per i risparmiatori. Mentre il Fatto Quotidiano, la RAI paga per farsi insultare. L'ex super consulente Merlo, con un contratto a 240.000 euro, attacca su Rai 3. Allora, dicevo, questa inchiesta della scuola. Gian Antonio Stella in prima pagina del Corriere. Mai visto in tutta la storia un caos così. Fatti i conti, i maestri, i professori che hanno cambiato cattedra quest'anno sono stati oltre 250.000, il triplo del solito. E gli studenti che hanno subito il carosello impazzito di uno o più docenti sono 2,5 milioni, uno studente su tre, un incubo. La prova di un andazzo che pesa come un macigno, prima dell'interesse degli studenti, da noi vengono quelli degli insegnanti. È l'opposto di quanto sosteneva Tullio De Mauro, oggi incensato anche dagli ipocriti. La denuncia di tutto questo, su questa giostra impazzita, è contenuta in un dossier di Tutto Scuola che non fa sconti a nessuno. Non al governo Renzi, reo di aver immaginato il percorso della buona scuola senza calcolare i contraccolpi immediati. Non alle burocrazie ministeriali, incapaci di valutare gli effetti catastrofici di questo tourbillon. Non ai sindacati, pronti a cavalcare assieme a torme di avvocati le buone ma pure le cattive ragioni di chi rifiuta di prendere atto di una realtà, e cioè il contenuto di una botte non potrà mai entrare in un bicchiere, cioè gli spazi sempre più ridotti delle scuole del sud. E poi ci sono i numeri, a cominciare dalla perdita degli alunni e a cominciare dal fatto che al nord mancano gli insegnanti, le classi sono più affollate, ma ci sono troppi insegnanti che non vogliono andare a lavorare lì. Sono due pagine, pagina 2 e 3, per raccontare questa girandola incredibile riguardante la scuola. Tra l'altro c'è un commento a corollario di Susanna Tamaro, la scrittrice, che prende spunto dal nuovo reality della Rai, Il Collegio. Non so quanti spettatori abbia avuto, scrive Susanna Tamaro, io non l'ho visto, per esempio. Non essendo un'esperta di format, non so dire quanto di quello che ho visto sia reale o invece frutto di una forzatura drammaturgica degli sceneggiatori. Certo che assistere alle prestazioni scolastiche di questo drappello di simpatici adolescenti c'è da rimanere davvero turbati, scrive la Tamaro. Davanti a una cartina muta dell'Italia, le Marche sono state scambiate per la Puglia e le città citate qua e là senza cognizione della loro reale posizione, per non dire della storia. I ritratti di Mazzini e Cavour risultavano praticamente sconosciuti ai più. O la matematica, un problema di quinta elementare degli anni 60, è stato risolto solo da una ragazza che ha ammesso di amare la matematica. Che questa non sia finzione, ma triste realtà, ce lo confermano le statistiche internazionali che ci vedono precipitare nelle graduatorie OCSE di 2 punti in un solo anno, relegandoci al 34esimo posto su 70 paesi. Si è parlato molto di buona scuola come di riforma determinante. Purtroppo non sembra per il momento essere riuscita a intaccare la degradata fossilizzazione del nostro sistema educativo. Introdurre i tablet, le mitiche lavagne interattive, facendo credere che l'ancora di salvezza stia nella modernizzazione, è un po' come mettere il cerone su un volto devastato dalle rughe. È indubbio che il primo passo verso questo inarrestabile degrado sia da far risalire alla riforma compiuta negli anni Ottanta del secolo scorso. La scuola elementare, in omaggio al mondo anglosassone, venne trasformata in primaria, avviandola verso una rapida liceizzazione, abolendo l'insegnante unica per venire incontro ai sindacati. Così i pensierini sono stati sostituiti dall'analisi del testo. La grammatica, ricordate sul qui e il qua l'accento non va, è stata rimpiazzata da schede prestampate. Al posto delle ciliegie da sommare, delle torte da frazionare, sono comparse le corrispondenze bionivoche e le entità equipotenti. Per non parlare del riassunto e del ripetere un testo a memoria, cancellati con un colpo di spugna in quanto richiedevano troppo sforzo. Ed eccolo qui il disastro della scuola attuale, così scrive Susanna Tamaro. Il disastro dei ragazzi che confondono le Marche con la Puglia, che scrivono, come mi è capitato di leggere una tesi di laurea, seppure, s'apostrofo, eppure. Oppure io, virgola, vado, virgola, a casa, virgola. Oppure davanti a una foto di Mussolini balbettano incerti sul nome, Maurizio. E poi si giustificano dicendo, a pochi mesi dalla maturità, veramente non l'abbiamo mai fatto. Ecco, tutto questo è un disastro partorito da un sistema che in nome del lassismo, la demagogia, del vivi e lascia vivere, tanto l'importante è il pezzo di carta, ha costantemente abbassato il livello delle pretese. E continua poi l'analisi impietosa di Susanna Tamaro in prima pagina del Corriere e poi continua a pagina 26. Buona scuola, cari studenti che state rientrando nelle vostre scuole. Ah, se siete a Roma, portatevi i vestiti. C'è una c'è una circolare delle scuole di Roma, non lo so, dei presidi di Roma. C'è freddo, portatevi il piumino, vestitevi bene, perché molte scuole sono senza riscaldamento. Si sorride, in realtà c'è da piangere veramente. Vabbè. In molti comuni del sud, peraltro, le scuole rimarranno chiuse, da Bari a Matera, racconta il Messaggero. Comunque, la circolare dei presidi, portatevi da vestirvi. Scuole romane al gelo, i presidi avvertono, portatevi il piumino. Va bene, a proposito di... No, questa non è scuola, ma è una pagina della pubblica amministrazione. Antonello Cherchi racconta come vanno i concorsi pubblici nel nostro paese, sempre sotto giudizio. Sono a pagina 5 del Sole 24 Ore. Sapete in quanti ricorsi ci sono stati nei concorsi della pubblica amministrazione negli ultimi 5 anni? 10.000 ricorsi. 10.000 ricorsi tra TAR e Consiglio di Stato, nonostante il blocco del turnover. Le selezioni per l'assunzione dei dipendenti della pubblica amministrazione spesso e volentieri prendono la strada del TAR e del Consiglio di Stato. Un numero di impugnazioni che si può considerare significativo, tanto più in anni in cui il reclutamento della pubblica amministrazione è vincolato dai blocchi del turnover per esigenze di risparmio. Nessuno sa quanti siano i concorsi che finiscono in un ricorso. Si tratta di un monitoraggio complicato, fa sapere il Sole 24 Ore, anzi, se non impossibile, perché non c'è un ufficio che tenga il conto di quante selezioni pubbliche finiscono davanti ai giudici, ma per avere un'idea del problema si deve cercare di mettere insieme più pezzi, intanto il numero di concorsi banditi in questi ultimi anni. E poi, per capire l'ordine di grandezza del contenzioso che si origina dal numero tutto sommato ristretto di bandi, si guarda all'andamento delle cause pubbliche presso i TAR e il Consiglio di Stato. Si fanno delle elaborazioni ed ecco allora che i ricorsi presentati sembrano attorno ai 9.828 negli ultimi 5 anni. Abbiamo grande fiducia ovviamente nei concorsi pubblici. A proposito di fiducia, ieri Repubblica ha iniziato questa inchiesta intitolata L'Italia degli imboscati. Oggi in qualche modo Il Giorno va dietro a Repubblica mettendo in prima pagina un grande classico, le truffe dei congedi da legge 104, quella legge giusta, quella legge sacrosanta dal punto di vista del principio che permette di assistere a un parente disabile assentandosi 3 giorni al mese stipendiati, ma che poi è diventata in Italia il regno dei furbetti. Epocale il 104ista, ormai si chiamano così, che fu pescato a Miami a fare un film porno mentre doveva assistere un parente disabile. Certo, Repubblica oggi torna a raccontare con Carlo Picozza una seconda puntata di questa inchiesta a pagina 12, Ci si chiede per esempio questo dato: come mai i dipendenti pubblici usufruiscono per il 13,5% di questa legge 104, mentre per i dipendenti privati sono il 3,3%, cioè 10% in più? E che succede? Statisticamente si ha un parente disabile così statisticamente in maniera più probabile se si ha un dipendente pubblico? Boh, guardate che è una roba incredibile. È una sfortuna incredibile per i dipendenti pubblici avere i parenti disabili. Il 13,5% dei dipendenti pubblici usufruisce della legge 104. Nel lavoro privato è il 3,3%. E comunque succedono casi, e questo è il premio sicuramente per l'articolo che mi fa pinzare della giornata, e quindi il premio Mani sul volante che torna se siete alla guida. La fuga dalle corsie nella sanità. Sappiate per esempio che al San Camillo, ospedale più grande di Roma, su 2.800 infermieri, sono 500 quelli esonerati dal lavoro per il quale sono stati assunti. Così, hanno un certificato per cui sono infermieri, ma sono esonerati dal lavoro per cui stanno dietro le scrivanie. Non sono assenteisti, sono impegnati nella settantina di ambulatori diurni, nei servizi della farmacia ospedaliera, qua e là, dietro le centinaia di scrivanie, comunque lontani dal capezzale degli oltre 1.000 ricoverati. E così si va avanti, insomma, con... A nulla valgono ovviamente le proteste. Ah, attenzione, il record anche qui è nella scuola. I docenti siciliani, il 16,75% gode dei privilegi della legge 104 o dei diritti della legge 104. Il 16,75% degli insegnanti siciliani, ricordate, nel settore privato sono il 3,3%. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Mela, le paucche dall'information. Ma che è? Va bene, mi piace, continuate con le vostre sigle anche nel 2017, mandatele via WhatsApp in audio, mi raccomando, al 349-238-6666, lo sapete, è il numero di Radio 24 anche per i vostri messaggi, ci siamo. Allora, la notizia politica del giorno, continuando la lettura dei giornali, certamente è il... Come definirlo? Qualcuno dice voltafaccia, una capovolta, come chiamarla? Insomma, quello che ha fatto Beppe Grillo, o meglio, quello che punta a fare il Movimento 5 Stelle in Europa, e cioè lasciare gli euroscettici di Nigel Farage per entrare in un altro gruppo. Convinta fede europeista, tra l'altro, come fa notare il Corriere della Sera, pagina 4, con Renato Benedetto. Il gruppo di ALDE, il gruppo dei liberali, guidati da Guy Verhofstadt, presidente del gruppo, si chiama Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa. Si voterà, nel senso che questo è il metodo utilizzato dal Movimento 5 Stelle, è una proposta per tutti gli iscritti. Entro le 12 c'è il voto online per tutti coloro che sono iscritti al Movimento 5 Stelle per decidere se abbandonare il gruppo di Nigel Farage, dunque UKIP, gli euroscettici, e passare invece a un gruppo di europeisti convinti, quindi sicuramente è una giravolta non indifferente. Grillo: addio a Farage per i liberali, la scelta in Europa spacca il Movimento 5 Stelle. L'ex capo di UKIP, Nigel Farage, la prende male: sarete degli eurofanatici. Al di là del stupore, ci sono delle analisi per cercare di capire come mai questa giravolta. Il retroscena di Emanuele Buzzi, per esempio, sul Corriere della Sera, racconta pagina 5. Ci sono in gioco i soldi e le cariche, il denaro e anche le cariche, appunto. Galeotta fu la Brexit, le frizioni, le incomprensioni tra UKIP e il Movimento 5 Stelle risalgono all'epoca del referendum sull'uscita dalla Gran Bretagna. 6-7 mesi di altalene, e poi a ordire tutta questa trama è stato, secondo il Corriere, David Borrelli, braccio destro di Davide Casaleggio a Bruxelles, il 5 Stelle che a giugno ha incassato la stima pubblica dell'ex premier Mario Monti e che ha lavorato in gran segreto a questa trattativa con i liberali. Una mossa necessaria dopo il rifiuto dei Verdi di entrare nel gruppo del Movimento, una mossa tenuta all'oscuro di gran parte della delegazione, una mossa concordata in gran segreto coi vertici di Milano e Genova del Movimento 5 Stelle. Tra l'altro c'è da dire che il prossimo 17 gennaio si vota per il nuovo presidente del Parlamento e dunque se il Movimento 5 Stelle entrerà in questo gruppo diventerà credo il quarto gruppo dell'Europarlamento e quindi peserà nelle contrattazioni, si parla già di un possibile ritorno e dunque di una vicepresidenza del Parlamento europeo per il Movimento 5 Stelle e per il pentastellato Fabio Massimo Castaldo in pole position. Questo racconta il Corriere, dunque anche il giornale. Grillo da Farage ai filo euro per prendersi più contributi. La base è furibonda, scrive il giornale. Anche La Stampa con Marco Zatterin racconta questa svolta. È certamente la notizia politica del giorno. Perché per il resto, ragazzi, ci dobbiamo accontentare del dibattito sulla legge elettorale. È iniziata oggi la quarta settimana decisiva per la riforma elettorale. Prende quota la possibile intesa. Su cosa? Sono cinque le proposte, racconta Tommaso Ciriaco sul campo. Cinque le proposte a pagina 4 di Repubblica. Il Mattarellum, il Consultellum, l'Italicum bis con ballottaggio, il proporzionale con mini premio, il sistema tedesco. Non fatevi venire come sempre il mal di testa quest'ora. Sono loro quelli strani, non voi. Ricordatevelo, sono loro quelli strani, non voi. Per esempio, a proposito di strani, si è votato ieri, scusate se mi viene da sorridere, per le province. Elezioni di secondo livello, cioè a votare non siete voi, cittadini italiani, perché le province sono cambiate. Ma ci sono ancora, come se ci sono. Si apre oggi la 193esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Chiusa parentesi. E votano, diciamo, i sindaci dei vari paesi votano. Allora, però attenzione, a dimostrazione che siamo la terra del Gattopardo, dove tutto cambia perché niente cambi, c'è la proposta di un ministro, il ministro Costa, che dice si torni alla scelta fatta dagli elettori, cioè le province tornino ad essere votate dai cittadini italiani. Quindi è il ministro degli affari regionali, è la dimostrazione plastica, evidente. Tutti quelli che mi dicono, ma le province non ci sono più, cosa conti? Eccole qua, non solo ci sono ancora vive, sono in mezzo a noi. Si vuole tornare da parte della proposta di un ministro a votarle come prima, gli italiani, cioè a non cambiare nulla, andare indietro come i gamberi, a trovarsi in una situazione come eravamo fino a 193 settimane fa. Dovremmo davvero riflettere sulla bocciatura dell'elezione indiretta dei senatori. E la mia idea, dice il ministro Enrico Costa, è quella di riproporre il voto popolare perché è fonte di legittimazione per tutti i consiglieri provinciali, anche perché effettivamente alle elezioni ieri di secondo livello delle province praticamente, insomma, non è che c'è stata una grande prova di attaccamento al voto da parte di 61.127 tra sindaci e consiglieri comunali che dovevano andare a votare per scegliere 842 consiglieri provinciali. C'è stato un alto tasso di assenteismo. E va bene, in tutto questo, quindi le province sono lì a lottare insieme a noi. In tutto questo Renzi pensa al ritorno. Voi pensavate che Renzi fosse, come dire, accantonato per sempre, ebbene no. Maria Teresa Meli racconta, pagina 15 del Corriere, Renzi lavora già al suo programma e lancia lo scouting tra i giovani. Il leader del PD ha avviato, racconta il Corriere, un'attività di scouting tra i giovani con alcuni tour nelle principali città italiane. Soprattutto Renzi investe sul programma del partito che sta elaborando insieme a Tommaso Nannicini, che infatti non fa parte del governo. Diciamo del governo Gentiloni. La sua non sarà solo una campagna d'ascolto, che avrà il culmine il 21 gennaio con un'assemblea dei segretari provinciali e regionali, cercherà anche un'interlocuzione e i temi sui quali sta affinando il programma sono tasse, sicurezza, meridione e giovani. A questo punta Renzi. Mentre, attenzione, governo che forse torna, governo che forse perde un pezzo. Io non lo so, questa anticipazione c'è solo su Libero. E per la verità non è messa neanche in grande evidenza, come invece meriterebbe, se la notizia fosse davvero così confermata. Poletti verso le dimissioni da ministro. Questo racconta almeno Libero a pagina 4. Per anticipare la sfiducia parlamentare, racconta Libero, Poletti potrebbe domani neppure presentarsi al dibattito. O addirittura potrebbe annunciare l'addio al governo durante il discorso per evitare il dibattito. La famosa frase «conosco gente che è andata via, questo paese non soffrirà averli più tra i piedi» è l'elemento scatenante. C'è una richiesta di sfiducia e, secondo Libero, Poletti potrebbe addirittura dimettersi entro domani. Staremo a vedere. A proposito di dimissioni, a proposito, è tornato Mauro Meazza. Buongiorno Alessandro. Veramente io ero già tornato da prima. Ah, sì? Comunque bentornati. Entrambi, ecco, diciamo così. Quindi riprendiamo le nostre abituali interlocuzioni, per usare un termine che ho sentito ti ha colpito molto. Ma perché tu c'eri? Ma perché c'era la radio? Sì, la radio anche in tua assenza, come dire, ha proseguito la sua attività. Non me l'hanno detto, vabbè. Non ti hanno avvisato. Mi hanno detto comunque che era tutto chiuso, vabbè. Comunque, essendo lunedì, la nostra interlocuzione si svolgerà come d'abitudine in decasillabi. Bene. Quindi vado a enumerare alcuni dei molti contenuti del solito indicatore di oggi, approfittando appunto della forma dell'endecasillabo, con il tuo consenso, ma eventualmente anche senza, direi. Ovvio. Declamo. Come insegnò Adriano Pappalardo in melodia che tutti ricordiamo, il nostro usato dir senza ritardo, questa mattina noi ricominciamo. E molto della casa e del mattone vedrai nell'iniziare il nostro sfoglio, dove lo prezzo sale o fa flessione in tutta Italia, ma più dir non voglio, perché è imponente, infatti sta all'inizio l'analisi del senso immobiliare, che è di Valeria Uva con Finizio Michele e molti altri ad aiutare. Ma per offrirti il giusto bentornato vorrei riprendere da ciò che m'è caro, le norme e in più l'esperto in allegato a chi cerca il saper daran riparo. Come Befana il fisco nella calza depose l'IRI ed il regime per cassa. Li trovi al paginon che all'occhio balza, ma sappi che la rima è sempre tassa. A te che allo microfono sei maestro, quest'anno nuovo auguro fantastico. Per tutto, a parte il calcio, sarò onesto. E mentre rimontiam, sentiamo il traffico. Alessandro Milan, l'antidepressivo dell'informazione. Eccoci qui, allora, lo spero, cari italiani. Allora, a proposito di lavoro, visto che ho detto questa notizia che c'è su Libero, secondo Libero addirittura Poletti, il ministro Poletti potrebbe dimettersi. Ebbene, c'è anche tutta la vicenda delle pensioni d'oro e libertà di licenziare. Questa è l'inchiesta che c'è su Il Giorno, sui sindacati. Tra l'altro c'è la polemica per l'utilizzo da parte dei sindacati dei voucher a Bologna, è una vicenda che ha tirato fuori Repubblica, e su questo, su questa doppia morale, Il Giorno fa appunto questa inchiesta a pagina 6 con Antonio Troise. Predicano bene, razzolano male. Il caso è quello dei voucher lavoro, da una parte vituperati, dall'altra utilizzati dalla stessa CGIL, l'ultimo di una lunga storia piena di leggi, leggine, norme, codicilli, che di fatto hanno trasformato i sindacati nell'altra casta, per citare il titolo di un libro pubblicato qualche anno fa. Insomma, se solo un italiano su 20 si fida della triplice, cioè della triplice sindacato, CGIL, CISL e UIL, forse qualche ragione c'è. Una crisi di rappresentanza che affonda le sue radici in quella miscela di privilegi e condizioni di miglior favore che i sindacalisti sono riusciti a ritagliarsi nel tempo. Prima ancora dei voucher, scrive Il Giorno, ci sono le pensioni. Ed è toccato proprio all'INPS di Boeri scoprire che mentre i lavoratori sudano sette camicie per incassare a fine carriera un assegno ai limiti della sussistenza, per i sindacalisti continua a esserci una sorta di doppio binario con un meccanismo semplice. Durante la loro attività di rappresentanti dei lavoratori è l'INPS, cioè la collettività, a farsi carico dei contributi. Poi però, quando è il momento di calcolare l'assegno previdenziale, scattano le vecchie regole retributive, prima della riforma 93, quando le pensioni erano calcolate sulle retribuzioni degli ultimi anni e non sui contributi effettivamente versati, come succede per tutto il resto del mondo. Ma il top dei privilegi è toccato con una legge approvata alla fine degli anni 70 dall'ex deputato socialista ex CGIL Giovanni Mosca, la famosa legge Mosca, appunto, che ha consentito a un esercito di 40.000 sindacati di veder riconosciuti a carico della collettività periodi di contribuzione figurativa per le attività prestate presso sindacati o partiti e mai regolarizzate. Un vero e proprio salasso per i conti dell'INPS. C'è poi l'articolo 18 cancellato col Jobs Act. Insomma, il giorno attacca con Antonio Troise i privilegi dei sindacati a partire da questi voucher tanto criticati e poi utilizzati almeno a CGIL di Bologna, come ha raccontato Repubblica. Oh, c'è anche un tema molto interessante su, per quel che riguarda le banche e soprattutto il salvataggio di Monte Paschi. Per Libero è l'apertura con tanto di articoli a pagina 2 e 3, il Corriere lo mette a pagina 6, il Giornale anche dà ampio risalto a questa notizia. La scelta è quella di Antonio Patuelli, cioè presidente dell'Associazione degli Istituti di Credito, l'ABI, è presidente anche della Cassa di Risparmio di Ravenna, il quale ha lanciato questa idea che sta facendo molto dibattere. Visto, l'idea è questa: visto che c'è stato un contributo pubblico per salvare la banca, in questo caso Monte Paschi, vengano fatti i nomi dei debitori insolventi, cioè la privacy dovrebbe essere messa da parte, l'interesse collettivo dovrebbe prevalere contro il diritto alla riservatezza dei singoli. Andrea Ducci, pagina 6 del Corriere. Per ora vige la ferrea regola tutela e protezione dei dati personali dei soggetti titolari di un debito bancario. Ma il presidente dell'ABI ha detto: se le banche sono salvate utilizzando soldi pubblici, il velo di riservatezza sui nomi dei principali debitori potrebbe essere levato. È un'eccezione chiesta da Patuelli, che racconta il Corriere, è stato anche in due lontane legislature deputato del Partito Liberale, è stato anche sottosegretario alla difesa nel governo Ciampi, e ha detto appunto questa frase: chiedo a titolo personale che siano resi noti i primi 100 debitori insolventi delle banche salvate. Per farlo penso al varo di una norma di legge sia per le banche risolute sia per quelle preventivamente salvate dallo Stato. Lo ha detto in un'intervista al Mattino. Insomma, bisognerebbe fare un'eccezione alle attuali regole della privacy, proprio alla luce del fatto che si tratta di banche nelle quali sul piano di risoluzione di salvataggio preventivo è intervenuto lo Stato o le altre banche e i risparmiatori. Beh, interessante questa idea che fa a discutere. Eccolo qua sul Giornale, lo faccio vedere anche sulla mia pagina Facebook. Patuelli vuole i nomi degli insolventi. Questo c'è su tutti i giornali. Vabbè, vi segnalo alcune cose. Il terrorismo colpisce ancora, questa volta Gerusalemme, e ci sono ovviamente ampie pagine sui giornali con il camion. C'è anche questo video impressionante, un camion guidato da un palestinese che si scaglia contro alcune soldatesse israeliane che erano lì tranquilli, e quattro di queste giovani cadette sono morte. Sono tre donne e un uomo, e le vittime sempre quattro. Ovviamente questo suscita ancora tanto scalpore per la lotta al terrorismo internazionale. Per quel che riguarda l'Italia ci sono notizie riguardanti ancora gli immigrati. C'è un'intervista al sottosegretario alla difesa Domenico Rossi, che viene intervistato dal Giornale e che dice a Chiara Giannini: faremo un CIE, cioè un centro di identificazione e espulsione, in ogni regione, useremo 7.000 militari, quelle di strade sicure. Tra l'altro ieri il ministro della difesa Pinotti ha parlato dello stesso tema da Maria Latella su Sky, e ha parlato anche dell'uso di militari. Oh, per quel che riguarda la cronaca, vi segnalo due pagine molto interessanti. Inizia in prima pagina La Stampa: sulle scorie nucleari, ci si concentra sul sito di Saluggia, che resta prigioniera delle scorie nucleari. Da anni non si decide dove metterla, ci sono delle foto, c'è un reportage molto, molto bello di Carola Frediani, che racconta come quali siano i costi dello smantellamento. Quella che doveva essere una soluzione provvisoria di Saluggia ovviamente è diventata una soluzione fissa, almeno per il momento. Anzi, la destinazione è quasi esclusiva per i rifiuti di tutta Italia. Tra l'altro dovrebbero stare i rifiuti di tutta Italia, quelli scorie nucleari, non vicino all'acqua, e invece sono vicino all'acqua, vicino alla Dora Baltea. E d'altronde ale così. Per quel che riguarda altre notizie di cronaca, vi segnalo, beh, intanto Marchionne che risponde in qualche modo a Donald Trump, al protezionismo di Donald Trump, come fa sapere Paolo Griseri su Repubblica a pagina 10, Fiat Chrysler Automotive risponde alle minacce di Trump con un investimento di 1 miliardo. Questo è l'annuncio di Marchionne, investimento da $1 miliardo per gli stabilimenti in Michigan e Ohio. Notizia che si è diffusa a Detroit alla vigilia dell'apertura del salone dell'auto. Per Marchionne l'operazione fa parte del piano di profonda ristrutturazione del sistema produttivo che negli Stati Uniti sarà rinforzato con particolare riguardo alla produzione di SUV e furgoni. Ecco allora la risposta alle minacce di Trump da parte di Marchionne. È tornata la regina Elisabetta dopo 2 settimane di febbre. Si è riapparsa, è andata a messa, mentre notizia internazionale che trova ampio spazio sui giornali con commenti, la morte dell'ex presidente dell'Iran Rafsanjani, un colpo ai moderati, racconta il Corriere. L'Iran ritorna in bilico, è scomparso a 82 anni per un infarto, aveva mediato per raggiungere l'accordo sul nucleare. Insomma, c'è il ruolo di Akbar Shah, come veniva definito, cioè il grande re per l'Iran e anche uno scacchiere medio orientale. Va bene, dai, siamo alla chiusura, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi stravince in prima pagina del Fatto Andrea Scanzi, che racconta come anche a 40 anni ci possa essere una crisi di mezza età che prevede la salutare serata in PlayStation. Ma chi se ne frega!